B. Ascolta e controlla. Essendo l'ultimo treno per Milano già partito, ho dovuto trascorrere la notte a Vicenza. Sono corso subito a trovare un albergo e sono stato fortunato. All'albergo Roma ho trovato una stanza libera. Ho lasciato la valigetta che avevo con me e sono uscito in cerca di una trattoria. Erano quasi le 9, ma a causa dell'ora legale il cielo era ancora chiaro. La città era deserta e silenziosa, soltanto qualche passante ogni tanto camminava frettolosamente per la via principale. Io ho cercato, ma non ho trovato più quella trattoria dove avevo mangiato molto bene un paio di volte 2 anni fa. Mentre tornavo in albergo, in una viuzza stretta e semibuia, ho visto una bottega ancora aperta per comprare qualcosa da mettere sotto i denti. La signora, senza guardarmi in faccia, ha detto che aveva solo un panino indurito. Allora io ho chiesto di tagliarlo e di metterci alcune fette di formaggio. Quella sera ho mangiato il panino più appetitoso della mia vita.